want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesforo. Buon pomeriggio e buona domenica a tutti voi in contatto con Radio 24. Siete in contatto ancora una volta con il soundcheck di Radio 24, la prova del suono. Buon pomeriggio da Gigi Telesforo e buon pomeriggio anche al nostro Francesco Tromba. Oggi ti vedo particolarmente effervescente, Francesco. Cos'hai mangiato? Peperoncino calabrese come sempre? Marmellata di peperoncino. Marmellata di peperoncino. Che senso dà la marmellata di peperoncino alla tua giornata? È un buon inizio, è anche un buon modo per spizzicare fra un pasto e l'altro. Ecco, così fate colazione voi calabresi, fette biscottate con burro e marmellata di peperoncino. Esatto. Bene, per dare il via al nostro appuntamento effervescente, naturalmente un po' piccante musicalmente, soprattutto nella seconda parte, quella che inizierà intorno alle subito dopo il GR delle 19, ma noi siamo pronti per affrontare questo pomeriggio con tanta musica. E direi, mio caro Francesco, di dare il via con una produzione tutta italiana che ha come protagonista la bella voce di una cantante che viene dal jazz, ma in carriera ha cantato di tutto. Questa brava ragazza si chiama Francesca Sortino, una nostra collega che ha un grandissimo senso dello swing e che ci propone il singolo che anticipa questa produzione a suo nome, intitolata Francis Kicks, ovvero i calci, cioè significa che sta scalciando Francesca Sortino nel mondo delle sette note, una produzione che vede la partecipazione di vari musicisti italiani di prima grandezza, fra i quali un po' il prezzemolino del jazz italiano, il nostro Fabrizio Bosso, poi ci sono anche Pietro Tonolo al tenore, gli arrangiamenti curatissimi del trombonista Roberto Rossi, una sezione di archi, insomma ottimi musicisti per questo nuovo album di Francesca Sortino, che è un album a cavallo fra il jazz e le sonorità contemporanee. Ricordiamo anche che Francesca Sortino, Francesco, è stata la prima vocalist di una band italiana ma nota in tutto il mondo, che sono i Gabin, con un brano che ha reso popolare non solo i Gabin ma anche la vocalità di Francesca Sortino. No, sto sbagliando? Esatto, era Duap, Duap, Duap, Duap. Ecco, Duap Duap, che era poi la versione dance di I Don't Mean a Thing If You Ain't Got the Swing, il celebre classico di Duke Ellington che celebrava la forza e la potenza dello swing. Allora ascoltiamo il nuovo singolo di Francesca Sortino. Auguri a Francesca Sortino, che presto avremo qui al soundcheck di Radio 24, il nuovo brano, una sua composizione intitolata Inside Art, che anticipa quindi Francis Kicks qui al soundcheck di Radio 24. Il suono di Francesca Sortino con i suoi musicisti, con il brano Inside Art, che anticipa la nuova pubblicazione intitolata Francis Kicks, che sarà pubblicata fra pochissimo, probabilmente già in distribuzione per una ottima etichetta e distributrice italiana che è chiamata A-Beat. E dal sound di Francesca Sortino facciamo un salto negli studi della Stax Records per l'album recente pubblicato dal veterano Booker T con il suo organo Hammond, che ha riunito nei celebri studi della Stax Records per Sound the Alarm una serie di musicisti contemporanei, fra i quali il vocalist Luke James. Il brano è bellissimo e si intitola All Over the Place. Booker T qui al soundcheck di Radio 24. Thank you. immortale suono dell'organo Hammond di Booker T da Sound the Alarm della Stax Records con la partecipazione di Luke James presente al soundcheck di Radio 24. Intanto vorrei ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica, è sempre lo stesso, soundcheck@radio24.it, e nelle pagine Facebook curate dal nostro Francesco Tromba troverete, credo, anche la scaletta con tutto l'airplay di questa giornata, o no? Hai lavorato per gli amici di Facebook? Sì, lavoro sempre per i social network. Ecco, come stanno andando i social network legati al nostro soundcheck? Siamo in continua crescita. In continua crescita e in evoluzione, così come in evoluzione la musica di un signore che si chiama Troy Andrews. Non so se avete mai sentito parlare di questo ragazzo nato e cresciuto a New Orleans, lì nell'ambiente fatto dalla famiglia Marsalis e da quel melting pot culturale e sonoro della splendida città della Louisiana. Lui in arte si chiama Trombone Shorty, e Trombone Shorty non è soltanto un eccellente trombonista, ma se la cava molto bene anche sulla tromba, e troverete in YouTube una performance di Trombone Shorty che duetta addirittura con Wynton Marsalis e non sfigura assolutamente. Tra l'altro, appassionato di jazz ma anche di funk, ultimamente si è esibito anche con un colosso del funk, il celebre Maceo Parker, e noterete sempre su YouTube quanto è forte ritmicamente questo signore con il suo trombone. Trombone Shorty guida una band che arriva tutta da New Orleans, una band che coniuga jazz, funk, soul, R&B e anche il sound tipico della città di New Orleans, e qui lo apprezziamo in una sua composizione di un album di un paio di anni fa intitolata Something Beautiful. Si chiama Trombone Shorty, presente al soundcheck di Radio 24. Can you show me something beautiful? Show me something beautiful, beautiful. Show me something beautiful. Show me something beautiful. Wow, can you show me something beautiful? Beautiful, show me something beautiful. Do you feel temperatures rising? Soundcheck. Il suono della musica. Si incontrano discograficamente per la prima volta nel 2006 Al Jarreau e George Benson qui al soundcheck di Radio 24 in questa originale versione di Ordinary People, brano che poi ha portato al successo una superstar di oggi come John Legend. Al Jarreau e George Benson, tratti da un album del 2006, dicevamo, intitolato Giving It Up, un album molto bello, molto piacevole, con la partecipazione di grandissime star come Jill Scott, Patti Austin, Herbie Hancock, Stanley Clark, Chris Body, Marcus Miller, addirittura c'è Sir Paul McCartney per interpretare poi anche dei classici rivisitati come God Bless the Child di Billie Holiday oppure la bellissima Bringing It Home to Me di Sam Cooke. E qui George Benson e Al Jarreau dimostrano ancora una volta che la classe non è acqua. Hai mai incontrato George Benson e Al Jarreau? Li hai mai visti dal vivo, Francesco? Io no, tu? Beh, io li ho visti diverse volte, puoi immaginare, anzi l'ultima volta che ho incontrato George Benson è stato a Perugia per un'edizione di Umbria Jazz, e mi ricordo che proprio durante il party di benvenuto dato da Carlo Pagnotta il signor Benson ha bevuto qualche drink di troppo e poi ha pensato bene di andare a smaltire l'alcol in eccesso con una bella sauna. Sai che è una cosa che non va fatta assolutamente, cioè bere dei whiskacci e poi andare a fare la sauna ti può portare direttamente in ospedale. Penso di sì, perché... Infatti lui è andato in ospedale, lo hanno portato proprio con la barella, con l'autoambulanza, perché era svenuto nella sauna, hanno trovato George Benson nudo e svenuto in sauna, l'hanno portato in ospedale, ma lui naturalmente si è fatto dimettere dopo gli accertamenti e quindi aveva avuto un calo di pressione notevole, però si è fatto dimettere e quindi gridando "io non ho mai perso un concerto in vita mia, portatemi sul palco di Umbria Jazz". Così ha fatto e diede vita poi quasi come se fosse... è successo un miracolo, no? E si era completamente ringalluzzito un attimo dopo aver messo il piede sul palcoscenico. È una cosa che succede ai musicisti perché l'adrenalina sale, evidentemente era salita a tal punto da fargli smaltire completamente la sbornia e anche l'abbassamento di pressione in sauna. Da George Benson e Al Jarreau abbiamo citato John Legend con la sua Ordinary People, allora vorrei ascoltare anche qualcosa tratto dall'album Love in the Future, ultima fatica per John Legend, album pubblicato negli ultimi mesi del 2013, ancora presente nelle classifiche di iTunes in tutto il mondo per questo signore che ha iniziato la carriera come compositore, come autore per le star americane, per poi diventare un eccellente performer e un ottimo cantante. Sai qualcosa di John Legend? È nato a Springfield. Alla città dei Simpson. Non è la stessa città. Non è la stessa città, però per assonanza sì, mi ricorda la città dei Simpson e mi sa che lui viene dal gospel. Sì, esatto, era nipote di un prete. Nipote di un prete, quindi è stato svezzato anche lui con il suono tipico delle chiese e del gospel. John Legend sarà in concerto la prossima settimana, purtroppo non in Italia, ma a New York. Dove si esibisce? Al New York CB Theater, a 40 minuti a est di New York. Ecco, bene, abbiamo dato anche le coordinate, poi magari nelle nostre pagine Facebook potrai illustrare anche la piantina e come fare per la prevendita. Sì. Ce la fai? Metteremo il link. Metteremo il link. Allora, ascoltiamo John Legend in So Gone, da Love in the Future, qui al Soundcheck di Radio 24, poi torniamo subito dopo il GR di Radio 24. My thing, yeah, yeah, yeah. I'ma do my thing, yeah, yeah, yeah, yeah. I was born at the end of December, not afraid at the cold of the winter. Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. Tocca prenotare subito il posto al Blue Note, mi sa il 28 maggio è la data del concerto di questa bellissima e bravissima ragazza, si chiama Mahir Andraji, l'abbiamo già presentata al nostro soundcheck con il nuovo album intitolato Lovely Difficult, il brano era Ilha de Santiago per Mahir Andraji, che non vedo l'ora di incontrare, magari per un'intervista, magari per farle i complimenti, magari per capire che è anche una ragazza bella e simpatica. Posso venire anch'io con te? Ma tu devi venire con me perché mi devi dare tutte le informazioni del caso, dobbiamo arrivare lì preparati come una grande squadra e non fare brutta figura con Mahira, che in questo momento è una delle mie artiste preferite sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista che riguarda l'aspetto fisico. Allora inizio a studiare tutto la sua biografia. Allora, la biografia di Mahir Andraji ci porta all'isola di Capo Verde, no? A Capo Verde c'è un genere musicale che è stato esportato in tutto il mondo dal talento di una grande signora del genere, il genere è la morna e la grande signora era Cesaria Evora, questa grande cantora di Capo Verde che ha fatto scuola non solo a Mahir Andraji ma anche a un'altra bella ragazza chiamata Sara Tavares. Tu sai qualcosa sulla morna? Sì, so che si compone in creolo. Esatto, nella lingua creola, sì. È uno degli strumenti più utilizzati, è il cavaquinho. Il cavaquinho, sì, che poi è uno strumento che viene molto utilizzato nella musica brasiliana, una piccola chitarrina e il sound tipico della morna, certo prevede il cavaquinho, ma anche la presenza di strumenti come l'accordeon, ovvero la fisarmonica, il violino, il pianoforte, naturalmente la chitarra, il clarinetto, quindi di un ensemble abbastanza acustico e spartano. Sì, la morna è considerata un po' il blues dei portoghesi. Ecco, è come il fado per il Portogallo, è come il tango per gli argentini, è come la rumba per Cuba, la morna è la morna per gli abitanti di Capo Verde. Genere molto sensuale, anche molto romantico. Allora, visto che stiamo parlando di Capo Verde, restiamo in questa bellissima isola dove è stata svezzata musicalmente un'altra cantora, una bella ragazza, anche lei chitarrista, cantante, chiamata Sara Tavares. Conosci Sara Tavares? Non la conosco benissimo. Te la presento, ha pubblicato un album molto bello qualche anno fa intitolato Balancé, e allora andiamo avanti proprio con la morna, il sound della morna contemporanea creato da Sara Tavares per Balancé, e questo è proprio il brano che dà il titolo a questa pubblicazione. Sara Tavares arriva al soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. La voce e il suono della nostra Carolina Bubico da Lecce con furore, questa pianista cantante che arriva da una famiglia di musicisti, il papà insegna al conservatorio e anche lei si è diplomata frequentando il triennio di jazz. Carolina Bubico scrive la sua musica, ha pubblicato il suo primo album intitolato Controvento, dove troverete questa bellissima canzone intitolata A me piacerebbe ridere. E andiamo fra pochissimo ad ascoltare un'altra composizione di Carolina proprio perché ci piace, ecco, diciamolo apertamente, questa è una ragazza che ha talento e sulla quale noi del soundcheck puntiamo ormai da un po' di tempo, e le auguriamo prestissimo di poter varcare anche la soglia del Teatro Ariston partecipando a Sanremo, visto che doveva andarci proprio nell'ultima edizione, poi alla fine le cose non sono andate bene per lei ma anche per un sacco di altri talenti, le cose vanno così a Sanremo. Che ne pensi di Carolina Bubico? È sicuramente da seguire perché ha molto potenziale, molto giovane. Molto giovane, molto potenziale, dice il nostro redattore Francesco Tromba, sempre attentissimo, e mi sa che in qualche modo sei anche coinvolto dal potenziale spirituale di Carolina Bubico? Sì, anche da quello. Anche da quello. Ha dei concerti in giro, Francesco? Sì, sarà il sabato 24 maggio a Cassino, in provincia di Frosinone, alle nuove officine generali, e invece il 25 maggio sarà al Celone di Foggia. Al Celone di Foggia, quindi un locale, un club a Foggia, quindi invito tutti gli amici e anche i miei parenti foggiani ad andare a seguire Carolina Bubico, che qui al Soundcheck ci propone un'altra composizione tratta da Controvento, il brano, anche questo molto bello, si intitola Di te. Ti piace? Sì, è molto bello. Mangiati le mie parole perfette, beviti le mie voce maledette, saziati, tanto io non mi nutro più. Non mi nutro più della speranza che non mi nutre più, la speranza sì, non mi nutre più, io non mi nutro di te. Mangiati le mie parole perfette, beviti le mie voce maledette, saziati, tanto io non mi nutro più di te. E dalla voce della giovanissima Carolina Bubico e il suo album d'esordio intitolato Controvento, alla voce di un veterano della canzone italiana che oggi noi dobbiamo trattare anche con i guanti bianchi per l'incarico importante e complesso che ha avuto come presidente della SIAE. Quindi vi stiamo parlando del nostro Gino Paoli, grande appassionato di jazz, che nel 2007 ha riunito alcuni fra i più quotati musicisti di jazz italiani come Enrico Rava, Danilo Rea, Flavio Boltro, Rosario Bonaccorso, scorso e il nostro amico Roberto Gatto alla batteria per dar vita a un album intitolato Milestones, un album con il quale Gino Paoli sfodera tutta la sua passione per lo swing e per il jazz cantando brani immortali come un classico di Yogi Carmichael intitolato Stardust, ma anche le sue composizioni celebri come Il cielo in una stanza in chiave senz'altro più jazz, quindi con un po' di improvvisazione. E da qualche anno Gino Paoli gira in lungo e largo il nostro paese in duetto con il pianista Danilo Rea, il nostro amico Danilo che presto sarà ospite del nostro soundcheck, con il quale ha prodotto un album dedicato alla melodia e alla canzone napoletana. L'album si intitola Napoli con amore, pubblicato per la serie Parco della Musica e quindi la distribuzione della distributrice Egea, che come sempre cura musica di qualità. L'album è molto piacevole, ve lo raccomando, intanto perché Gino ha una voce splendida, continua ad avere l'intonazione di un tempo, un pathos, ci mette anche nell'interpretazione di classici napoletani, per quanto poi la sua pronuncia sia da genovese o no. Sì, non è proprio il massimo in napoletano. Però lo promuoviamo a pieni voti. Sì, è comunque un grande album. Anche perché è presidente della SIAE, no? Non mi far fare brutta figura. No, per carità. No, per carità. Comunque c'è Danilo Rea e quindi Gino Paoli e Danilo Rea chiudono questa prima parte del nostro soundcheck. Vi ricordo che noi saremo di nuovo in onda qui su Radio 24 dopo il GR delle 19, quindi intorno alle 19.15 mi sa. 19.14 per l'esattezza. E allora Gino Paoli e Danilo Rea in Reginella, un classico napoletano scritto da Libero Bovio e Gaetano Lama, ricordandovi che saranno in concerto anche loro venerdì 16 maggio a Mestre al Teatro Toniolo. Il biglietto costa caro, eh? Sì, 40 euro sono un po' tanto. Vabbè, ma è il presidente della SIAE, quindi poi tocca pagare una bella SIAE. Allora biglietti a 40 euro e 25 in prevendita. Andrai? Penso di no. Pensi di no? Vabbè, andremo a vedere però Mahir Andrade a Milano al Blue Note il 28. Lì ci sarò sicuramente. Eccoli qui, Gino Paoli e Danilo Rea al soundcheck. Ci sentiamo più tardi, sempre qui su Radio 24. Te si fatta una veste scullata, un cappiello con nastre rose. Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesco. Pronti per la seconda parte del soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da GG Telesforo e siamo entrati subito nel mondo del jazz, del sound jazz, come ormai facciamo nel weekend. La seconda ora della domenica la dedichiamo agli appassionati del genere e andiamo subito a verificare alcune nuove pubblicazioni. E questa non è una nuova pubblicazione, bensì una ristampa giapponese. Infatti tutti i dati di copertina di questo album sono scritti con i caratteri giapponesi, non si capisce nulla, e poi nella quarta di copertina ci sono i scritti con caratteri piccolissimi i dati originali dell'album di esordio di un signore chiamato Bobby McFerrin. Esattamente, Bobby McFerrin appare sulla scena discografica con questo album pubblicato per la Elektra Musician nel 1982. Io acquistai proprio il vinile e rimasi molto colpito dalla versione, dall'arrangiamento creato da Bobby McFerrin per questa sua versione di un classico di Van Morrison intitolato Moondance. Noi conosciamo la versione ormai di successo di Michael Bublé, una versione orchestrale che ci riporta le big band tipiche di Count Basie e Duke Ellington con la vocalità alla Frank Sinatra di Michael Bublé, ma personalmente ho sempre apprezzato questa versione di Bobby McFerrin che vi presentiamo subito al soundcheck. Bobby McFerrin ormai da anni è un campione di vocalità, un grande didatta, un grande maestro maestro va in giro per il mondo da solo con il suo microfono e riesce a tenere con grande facilità la scena duettando con il pubblico che esce dagli spettacoli di Bobby McFerrin sempre con il sorriso sulle labbra. Non so se il nostro Francesco Tromba abbia mai avuto l'opportunità di vedere un concerto di Bobby McFerrin. No, però vorrei tanto vederlo. E speriamo che si riaffacci in Italia la prossima estate, visto che ci stiamo avvicinando al periodo estivo e, come tutti ben sappiamo, l'Italia diventa uno dei punti di contatto per il jazz internazionale. Arriveranno tutti i musicisti più importanti del mondo per partecipare ai festival grandi e piccoli organizzati nel nostro paese. Diamo il via quindi al soundcheck di oggi con questa ristampa del 1982 in evidenza Bobby McFerrin, il primo album, l'album di esordio per questo campione di vocalità. Il brano si intitola Moon Dance. Questo è il soundcheck di Radio 24. Moon Dance, il brano scritto da Van Morrison nella versione di Bobby McFerrin dal suo album di esordio, che non ha un titolo, anzi si intitola il disco Bobby McFerrin, targato 1982. Bobby McFerrin è in tournée in Europa, un sacco di date in Germania a partire da domani, poi si sposta in Lussemburgo, va a Stoccolma il 14 di maggio, torna in Germania, passa da Parigi il 20 di maggio. Da non perdere le vicende di questo signore con orecchio assoluto e ben 6 ottave di estensione, e ancora oggi continua a studiare, a dare lezioni a destra e sinistra per il mondo con grandissimo successo e soprattutto a divertirsi con la musica. È un altro protagonista del jazz ma anche del funk che si è sempre divertito con la musica e le sue produzioni discografiche. È un musicista, un pianista, un maestro del funk e del Rhodes Fender chiamato George Duke, purtroppo scomparso da meno di un anno. George Duke lo ascoltiamo in questa seconda parte del soundcheck in una sua versione di un classico di Duke Ellington intitolata In a Mellow Tone. Eccolo qui, George Duke al soundcheck. In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not all alone, I'm a company. Cause everything's okay. This old day with his mellow song, I can't go wrong in a mellow. Soundcheck. Il suono della musica. It's something that he just can't see. I don't know what's wrong with my pretty, pretty baby. Cause my baby, he really just cares for. Oh, my baby, he only swears for. My baby, he only just cares for me. So conosciamo benissimo la versione di Nina Simone di My Baby Just Cares For Me, qui interpretata dalla figlia d'arte Natalie Cole, figlia di cotanto padre Nat King Cole, che non è stato soltanto un eccellente musicista, è iniziato come pianista e poi è diventato un punto di riferimento vocalmente parlando, ma è stato anche una star della televisione musicale lì negli Stati Uniti. Nat King Cole, meraviglioso fumatore, fumava 60-70 sigarette al mentolo e lui stesso pensava che il segreto della sua vocalità stesse proprio nel fatto di assumere nicotina dalle sigarette al mentolo anche durante i turni in studio di registrazione. Bene, siamo arrivati al momento degli squilli di tromba, ovvero i concerti segnalati dal nostro Francesco Tromba da seguire in Italia e all'estero. Da dove vogliamo partire? Iniziamo dal Ravenna Jazz Festival. Ravenna Jazz Festival, che è iniziato già da qualche giorno ma si sta per concludere, mi sa che finisce il 13. Sì, finirà martedì. Martedì 13 si conclude questa bella esperienza del Ravenna Jazz Festival, che questa sera ha come protagonista Napoleon Maddox con la sua istrionica vocalità, esattamente al Cisim, esatto? Sì, alle 21.30. Alle 21.30, quindi il tempo di finire la puntata del soundcheck e poi di andare tutti insieme a vedere Napoleon Maddox a Ravenna, per poi ritornare il 13 per la grande chiusura con la partecipazione del nostro Paolo Fresu e del pianista Yuri Kane, accompagnati dall'orchestra del Parco della Musica lì a Ravenna al Teatro Alighieri. Kenny Garrett con il suo sax contralto e il suo quartetto sarà al Blue Note di Milano il 13, così come il quartetto di Ravi Coltrane il 13 a Terranuova a Bracciolini in provincia di Arezzo all'Auditorium Le Fornaci per Valdarno Jazz Festival, e il 14 si sposta invece a Forlì al Teatro Diego Fabri. Ben Harper arriva in Italia mercoledì 14 al Teatro Colosseo di Torino, Nicola Conte, il nostro Nicola Conte, il 18 a Lecce al Teatro Paesiello. Poi ci sono altri concerti, ma in giro per il mondo, come sempre New York è una meta importante per tutti i musicisti e per gli appassionati di musica, quindi il bluesman Joe Bonamassa lunedì 12, quindi domani, facciamo in tempo a prendere il primo volo per New York? Noi penso di no, e infatti resteremo qui. Lunedì 12 quindi al New Jersey, vicino a New York, al Cambesi Theater, così come Marc Ribot Trio Live at Village Vanguard, sempre domani sera. Mamma mia, c'è da scegliere a New York, eh? C'è sempre tanta roba a New York. E da non perdere dal 13 al 18 lì a New York al Blue Note Jazz Club il trio di John Scofield. Allora facciamo una pausa un attimo con i concerti e andiamo ad assaggiare la chitarra di John Scofield dall'ultimo lavoro, il secondo capitolo intitolato Uber Jam, sound nuovissimo per questo meraviglioso musicista che non finisce mai di stupirci. John Scofield in un reggae originale si intitola Dub Dub. John Scofield al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Anche questo è un album da non perdere, intitolato Elastic, pubblicato nel 2002 per il sax tenore di Joshua Redman in ottima compagnia, con Brian Blade alla batteria e Sam Yael all'organo, pianoforte, Rhodes Fender e bassi e tutto il resto. Il brano era The Birthday Song. Prima di chiudere questo appuntamento del soundcheck andiamo a verificare gli ultimi concerti in giro per il mondo. Da New York ci spostiamo a Los Angeles, dove venerdì 16 potrete assistere al Lobero Theater di Santa Barbara al concerto di Bill Frisell. E ora ci spostiamo ancora con un volo programmato dal nostro Francesco Tromba, ci spostiamo a Londra, dove Jeff Beck suona mercoledì 14 alla Royal Albert Hall, e sempre alla Royal Albert Hall c'è Tori Amos il giorno dopo, giovedì 15. Un altro volo per Parigi, finalmente martedì 13 c'è una vocalist molto apprezzata in Francia, vinto vari premi e noi l'abbiamo anche presentata al soundcheck, la sudcoreana Yoon San Na, martedì 13. Ecco, qua faccio veramente fatica perché il francese lo pronuncio molto male, e quindi perché non lo presenti tu? Ci provo. Ecco, dove suona Yoon San Na? Al Centre Culturel Paul Bayard. L'hai detto discretamente, provo una certa invidia. A Massy, a 20 chilometri da Parigi. E poi continui a propormi i concerti di Carla Bruni, il 13 al Casino de Paris. Perché Carla Bruni? Perché vorrei vederla dal vivo. La vorresti abbracciare e darle anche un sacco di bacetti, eh? Sì, da vicino, diciamo. Da vicino. Tu intanto ti puoi presentare inviandole una pianta di peperoncino calabrese, tanto per preparare la situazione. Potrei conquistarla con un peperoncino. E voi calabresi siete fatti così. Terence Blanchard in quintetto, il 13 al New Morning di Parigi. Chiudiamo con il nostro Bobo Rondelli mercoledì 14 a Studio dell'Hermitage e finalmente Caetano Veloso venerdì 16 e domenica 18 a Le Grand Rex. Questo l'ho pronunciato molto male in francese. Comunque questi sono i concerti da seguire, quelli segnalati per gli squilli di tromba dal nostro redattore Francesco Tromba, che ringrazio per aver partecipato anche a questo weekend del nostro Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, che torna la prossima settimana, sempre il sabato, a partire dalle ore 19 alle 21 e poi la domenica con il doppio appuntamento dalle 15.30 alle 16.30 e poi di nuovo alle 19.14, non si sa, ce lo diranno. Allora, chiudiamo in bellezza con una novità, con questo chitarrista della nuova generazione, giovanissimo, si chiama Neer Felder. L'album è Golden Age, prodotto per la OK distribuzione della Sony, per questo ragazzo che è considerato il nuovo chitarrista, il chitarrista del momento, the next big jazz guitarist per NPR. Che cos'è NPR? È una radio americana. Una radio americana che quindi ci segnala Neer Felder come uno dei migliori musicisti in circolazione della nuova generazione. E vediamo con chi suona questo signore. Beh, questi li conosciamo: Aaron Parks al pianoforte, Matt Penman al contrabbasso, Nate Smith alla batteria. L'album è abbastanza tosto, ma da ascoltare, giusto? A me è piaciuto tantissimo. Si intitola Golden Age, l'album di debutto per la OK di Neer Felder, col quale chiudiamo questo Soundcheck. Il brano si intitola Lover. A tutti voi buona serata e buona settimana da Gigi Telesforo e Francesco Tromba. Li saluti tutti? Buona serata a tutti.